Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Bolle, schiume, gocce, nebbie sono tutti fenomeni imparentati tra loro e sono a loro volta alla base di una fenomenologia molto vasta, in alcuni casi sorprendente. Insomma, se solo pensiamo che in termini di bolle si spiegano fenomeni che vanno dalla biologia alla cosmologia, tutto questo appare evidente. Ebbene, questa sera vogliamo aggiungere, diciamo così, un capitolo alla saga delle bolle parlando di una giovane azienda che utilizza le bolle per ripulire acque e reflui industriali, lavare frutta e verdura e, come vedremo, parecchie altre cose. L'azienda si chiama BioCavitus con la K e sarà ospite a Ecomondo, la fiera della sostenibilità che si terrà nei prossimi giorni a Rimini. In linea con noi c'è l'amministratore delegato di BioCavitus, Fausto Rodella, che però insomma è un tecnico esperto di questa materia. Buonasera Rodella. Buonasera. Allora Rodella, partiamo dalla prima applicazione per entrare in questo mondo delle bolle, che riguarda le acque reflue industriali. In che modo qui le bolle possono aiutare a ripulirle? Allora, in questo caso noi utilizziamo micro bolle d'aria che vengono opportunamente miscelate all'interno del fluido da trattare, e queste micro bolle procedono ovviamente per galleggiamento dal basso verso l'alto e per effetto di coalescenza eccetera, in qualche modo riescono a portare in superficie quelli che sono gli inquinanti, soprattutto oleosi, che in ambito industriale l'inquinante più tipico è ovviamente l'olio. Dobbiamo immaginare il caso in cui all'interno di una vasca o sia essa di una lavatrice oppure di una macchina utensile, in cui si trovano delle parti di trucciolo che in qualche modo sono in connessione con particelle di olio. Cioè prendiamo le classiche lavorazioni meccaniche, per esempio, in cui vengono fuori dei bei pezzi sporchi di grasso e pieni di trucciole di metallo. Voi li mettete in una vasca, lì bisogna ripulirli. Voi lo fate con le bolle. Queste bolle, lei dice, incapsulano il grasso sostanzialmente. In qualche modo circondano la parte oleosa, sì, la separano dalla parte metallica e fanno flottare verso l'alto questa parte oleosa, creando poi un film oleoso che con un sistema tradizionale di disolazione può essere eliminato. Un po' come quando si schiuma, per intendersi, la pasta, tra virgolette. È abbastanza simile. Evidentemente in questa situazione poi questo inquinante oleoso può essere facilmente separato e in certi casi anche recuperato come olio. E tra l'altro anche ai truccioli succede, di metallo succede una cosa interessante, vero? Il trucciolo evidentemente abbandonato l'olio precipita verso il basso, in questo caso può essere in qualche modo asportato dal fluido. In questo caso noi otteniamo un prolungamento della vita del liquido, sì, che può passare da 1, 2, 3, 5 volte anche di più la vita normale del fluido, con gli ovvi risparmi in ordine allo smaltimento del fluido, perché quando questo fluido inquinante poi alla fine della propria vita deve essere smaltito, evidentemente questo è un costo. D'accordo. Senta, parliamo adesso invece di un'altra possibile applicazione che chiama in causa un fenomeno chiamato cavitazione. Ora, non c'è un film sui sottomarini in cui non ci sia l'addetto al sonar che a un certo punto urla: sento rumore di cavitazione, no? Che di solito è quando il sottomarino nemico sta partendo a tutta velocità. Allora, intanto ci spieghi che cos'è e come si può sfruttare. Allora, la cavitazione è una, per dire in maniera molto molto semplice, è una brusca variazione di pressione dovuta ad un distacco del film fluido che in questo momento sta correndo relativamente giù. Troppo complicato, diciamo così, una forte depressurizzazione, non so se... Per esempio l'elica, quando gira, da una parte spinge l'acqua, dall'altra crea una forte depressione, e lì si formano queste bolle di cavitazione, che di solito distruggono le eliche però. Queste bolle di cavitazione... diciamo si espandono, espandendosi poi implodono violentemente sottoposti al campo pressorio. L'energia con cui sono caricate si va a scaricare in microsecondi, e quindi è questo il motivo per cui si ha il danneggiamento dell'elica oppure di una girante della pompa. È come se quando ricollassano arrivasse giù una martellata praticamente, no? L'energia con cui sono caricate, questa si scarica in istanti brevissimi. Oltre a questo, diciamo, si generano all'interno, siano delle temperature elevatissime e siano delle pressioni altrettanto elevate. In alcune condizioni si possono osservare fenomeni di sonoluminescenza, sì, dove queste microbolle implodendo di fatto illuminano. Quindi se c'è un'emissione di un bagliore luminoso, vuol dire che la temperatura sicuramente è andata oltre qualche migliaia di gradi. Certo, certo. Quindi è evidente che all'interno di questa bolla si ha un piccolo reattore. E voi come pensate di utilizzare questo microreattore? Noi immaginiamo che questa reazione possa essere utile per il trattamento di tutta una serie di reflui industriali, eccetera, che possono in qualche modo essere inertizzati, certo, per il trattamento di suoli inquinati, acque inquinate, eccetera. Però questa è una prospettiva futuribile. Oggi noi siamo più concentrati ovviamente sull'aspetto industriale. Grazie allora, grazie Fausto Rodella. Un saluto a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre domani stessa ora stessa radio. Buona serata.